Letture di Radio 24. Truccate già a 8 anni, sottoposte a diete o a piccole operazioni chirurgiche per vincere i concorsi di bellezza. È l'America delle piccole miss, uno sfruttamento precoce al quale le mamme stanno però iniziando ad opporsi. Salvate la reginetta Chloe. Quella nazi di mamma Jamie l'ha confessato lì, nel profondo Texas. Gli aguzzini del concorso avevano già emesso la sentenza. Se Chloe vuole fare più di un passo in passerella, sarebbe meglio sistemarle le sopracciglia ribelli. E sapete che cosa vuol dire sistemare le sopracciglia di una bimba di 9 anni? Un po' di dolore per vincere un titolo, si difende quella sciagurata di mamma. Già, cosa volete che sia un po' di dolore? Chloe è solo l'ultima delle piccole cenerentole costrette a sottoporsi alle fatiche che neppure una modella adulta quasi affronterebbe. Ma adesso l'America ha deciso di dire basta. Basta con questa pantomima spacciata per concorso di bellezza che invece è sfruttamento vero e proprio. Un mercato che coinvolge 3 milioni di bambine e ragazzine dai 3 ai 16 anni. Una tassa che si abbatte su centinaia di migliaia di famiglie. Entrare nel circo può costare relativamente poco, dai 100 ai 200 dollari il biglietto d'ingresso nei concorsi, ma poi restare in tour costa e come. Solo gli abiti vanno dai 1000 ai 5000 dollari. Sì, anch'io pensavo fosse una cifra folle, ammette Heather Cook alla TV ABC. Ma alla fine la nostra J-Leaf ha vinto il primo premio a Somerville, 1800 dollari. E sono cominciati a piovere i ricchissimi contratti. In fondo, non è lo stesso con i bambini che sono allevati nel sogno del baseball? No, che non è lo stesso. C'è un costo di cui nessuna famiglia sarà mai più ripagata. Tenet Carey ha raccolto in un libro in uscita la sua rabbia di mamma. Dov'è finita la mia bambina? Come proteggere vostra figlia da una crescita prematura? Tenet è stata una piccola reginetta lei stessa. Oggi è una giornalista che denuncia la follia del mercato dei prodotti di bellezza, che dal 2007 è raddoppiato nel segmento dagli 8 ai 12 anni. Sono prodotti che giocano già nel nome a sedurre le bambine. SWOC sta per Sent with a Kiss, spedito con un bacio. Trattamento per le labbra. BCNU sta per Be Seeing You, ci vediamo, ombretto. E tutto è pronto per il prossimo boom. Dice una ricerca che la metà delle bambine dai 3 ai 6 anni si sentono grasse. A 7 anni, 9 su 10 giurano di voler dimagrire. E la metà delle bambine di 9 anni ha già intrapreso una dieta. È in questa ossessione di apparire più belli più che più sani che il mito trova terreno fertile. Little Miss America è un reality che racconta anche sulla nostra TV le vicissitudini di mamme e bambine in questi concorsi di sregolatezza. Per carità, perfino una psicologa come Lisa J. Rapport riconosce che nel 95% dei casi i genitori si tuffano in questi concorsi perché comunque i bambini si divertono. Ma una ragione ci sarà se uno di questi ex ha deciso di fermare lo show. Paul Peterson era un attore bambino e oggi ha fondato un'organizzazione con l'obiettivo di dire basta. Non solo questi concorsi tolgono tempo ed energie, creano nelle bambine aspettative sessuali, nutrendo l'industria del sesso di domani. Salvate la reginetta Chloe prima che sia troppo tardi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Acquaro, Belle e infelici, l'America ferma le piccole miss, dalla Repubblica del 27 giugno. Letture di Radio 24. Se nella sala d'attesa di un dentista viene diffusa la musica trasmessa da una radio, si devono pagare i diritti d'autore, anche se in realtà sono già stati pagati dalla stessa radio. Lo stabilisce un avvocato della Corte Europea. Il dentista che installa un apparecchio radio nel suo studio e che trasmette musica a beneficio dei pazienti in attesa è tenuto a versare l'equa remunerazione alla società di fonografici. Le conclusioni dell'avvocato generale della Corte UE, Verica Tersteniak, rese note mercoledì scorso, segnano un ulteriore round a favore della società Consortile Fonografici sul tema dei diritti dei produttori delle tracce musicali. L'avvocato generale ritiene che rendere udibile una trasmissione radiofonica significa comunicarla indirettamente, che pur mancando in quella direttiva la nozione di pubblicità della comunicazione, presupposto del diritto del produttore, non si può escludere da quell'ambito il pubblico presente nel luogo dove c'è l'apparecchio radio, che nel contesto della comunicazione al pubblico è irrilevante se l'utilizzatore persegua con essa uno scopo di lucro. Così come è irrilevante nel caso specifico la volontà dei pazienti in attesa di ascoltare la musica o di ritenerla al contrario un fastidioso bombardamento di suoni. Quindi, in sintesi, il dentista che diffonde musica nel suo studio, anche se privato, è tenuto a remunerare i diritti dei produttori della traccia. La questione giuridica riguardava un processo radicato alcuni anni fa a Torino. Il medico, che aveva vinto il processo in primo grado, lamentava che i discografici non possono vantare alcun diritto sulla musica radiodiffusa in un ambiente, tra l'altro privato, discorso diverso sarebbe per gli ambulatori pubblici, anche perché il compenso grava già sull'emittente radiofonica e inoltre manca lo scopo di lucro da parte di chi, lui stesso, allieta l'attesa dei pazienti diffondendo note. Ma già in appello, gli stessi giudici che avevano rinviato la decisione della Corte dell'Unione Europea sospettavano il contrario, ritenendo tutt'altro che scontato che il pagamento alla fonte da parte della radio o TV emittente assolva anche l'obbligo di chi reindirizza la trasmissione verso un nuovo pubblico. Il rilancio del segnale, infatti, produce un'utilità aggiuntiva che, come tale, deve essere compensata a parte. E anche il Tribunale di Milano lo scorso anno aveva dettato la linea di merito con una sentenza della sezione specializzata per la proprietà industriale. Le spettanze dell'autore e del produttore sarebbero già chiare nelle leggi italiane dalla giurisprudenza europea. In particolare, la sentenza della Corte di Giustizia stabiliva che devono essere autorizzati, e perciò ricompensati, tutti gli atti di comunicazione con i quali l'opera viene resa accessibile al pubblico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Galimberti, Il dentista paga per la musica, dal Sole 24 Ore del 30 giugno. Si chiama Monitoraggio per la sicurezza alimentare e viene effettuato periodicamente dai carabinieri del NAS con ispezioni in supermercati, ristoranti, bar, depositi per le merci. L'ultimo, compiuto mentre in Europa dilagava il panico per infezione da Escherichia coli, ha fornito risultati drammatici. Su 1663 strutture controllate, 817 sono risultate irregolari, una su due. Ne sono state chiuse 138 con il sequestro di derrate per un valore di oltre 56 milioni di euro. A Milano sono state trovate 18 tonnellate di alimenti etnici in cattivo stato di conservazione e sottoposti ad arbitrari congelamenti. A Torino quasi 500 kg di materie prime per dolci erano scadute nel 2001. In un'azienda di Padova che commercia surgelati c'erano 17 tonnellate di funghi porcini di provenienza cinese invasi da larve. A Bologna, 47 tonnellate di miele adulterato con aggiunta di zuccheri estranei e miele di origine asiatica stavano per essere vendute alla grande distribuzione come miele italiano ed europeo. A Firenze, 700 litri di olio risultato contraffatto con una miscela di olio di semi con aggiunta di clorofilla, spacciato per olio extravergine di oliva a ignari ristoratori. In un molino di Livorno, i cereali trovati in una struttura sporca e piena di ragnatele presentavano escrementi di roditori e penne di volatili. In un parco dei divertimenti di Roma sono stati inseriti nel menù alimenti congelati venduti come freschi. In un supermercato c'erano 200 tonnellate di alimenti privi di rintracciabilità e scaduti. Altro che batterio killer. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fiorenza Sarzanini, Quanti pericoli nel menù di tutti i giorni, dal settimanale Io Donna del 25 giugno.